Sempre signor giudice, stiamo per finire. Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino? La mia vita è cambiata innanzitutto perché dalla morte di questo mio vecchio amico e compagno di lavoro è chiaro che io sono rimasto particolarmente scosso e sono ancora impegnato ad un mese di distanza a recuperare, vorrei dire, tutte le mie possibilità operative sulle quali il dolore ha inciso in modo enorme. È cambiata anche perché, sia per la morte di Falcone, sia per taluni altri fatti, mi riferisco alle dichiarazioni ormai pubbliche di quel collaboratore che ha parlato, che ha detto di essere stato incaricato di uccidermi, e la notizia arrivata alla stampa in concomitanza con la notizia con la strage di Capaci, le mie condizioni sono state estremamente appesantite, le misure di protezione nei miei confronti e nei confronti dei miei familiari. È chiaro che in questo momento io ho visto quasi del tutto, anzi vorrei dire del tutto, pressoché abolita la mia vita privata. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto? Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Grazie signor giudice.